Chi mi ascolta da un po' di tempo sa che io ho già provato nelle mie riflessioni omiletiche a dire che la Chiesa si ispira per la sua vita sia alla parola di Dio sia alla tradizione della Chiesa e che c'è nella tradizione vivente della Chiesa, assieme alla liturgia, assieme al magistero autorevole, c'è una grande parte di magistero di santità. La prova più evidente me l'ha data stamattina Papa Francesco, che aprendo la Basilica di San Pietro dopo più di 70 giorni di chiusura delle celebrazioni pubbliche a causa di questo coronavirus, e siccome oggi 18 maggio è 100 anni giusti dalla nascita di San Giovanni Paolo II, lui ha fatto una riflessione tutta sul Papa. Allora, se fa così il mio maestro, posso tranquillamente anch'io oggi non ispirarmi alla parola di Dio, ma ispirarmi alla santità della Chiesa. E parto da lontano. Qualcuno di voi dirà: ma da che parte vai? Ma poi arrivo a casa. Avete mai visto voi se la donna oggi nella società, anche nella società civile, manageriale, politica, ha il posto che le spetta? No. No. Tant'è vero che si cerca di fare dei correttivi a delle elezioni politiche, occorre una quota rosa, occorre un certo... Avete mai visto delle ditte guidate da donna manager? Qualcuna, rara. Avete mai visto una ditta di 2-3 mila persone guidate solo da donne? No, io sì. E le vedo nella Chiesa. Per esempio vedo le suore, 15.000 suore salesiane guidate solo da donne, anche economicamente, anche per le costruzioni, anche per la loro legislazione interna, solo donne. Altro che la Chiesa non valorizza la donna, la Chiesa deve fare ancora tanti passi, A parte che Francesco ha appena messo una donna ai vertici anche su del Vaticano. Ma la Chiesa, se ci riflettiamo bene, valorizza così tanto le donne da dire: abbiate una organizzazione solo in mano vostra. Dico questo perché oggi la nostra Chiesa festeggia due fondatrici, Santa Bartolomeo Capitanio e Vincenza Gerosa, che hanno fondato le Suore della Carità, che il popolo conosce come le Suore di Maria Bambina. Sono nate qui in Lombardia, sul lago d'Iseo, a Lovere, nel 1800, quindi non sono di millenni fa. Sono arrivate a incantare così tante ragazze da attrarle alla sequela di Gesù nel loro cammino, che 50 anni fa hanno toccato il tetto massimo di 9.000 suore. Oggi sono scese a 5.000 e non proprio giovanissime, però hai voglia, 5.000 donne sono una potenza. Cari amici, volevo parlarvi un momentino delle suore nella Chiesa, perché se parliamo delle suore di Maria Bambina, credo che tanti di noi all'asilo hanno avuto loro. Io ho avuto loro come suore, la mia suora. Cos'è la suora per un bambino che va all'asilo? Cos'è una suora animatrice di un oratorio? Ha la capacità di una donna, la generosità di una donna e la consacrazione di una donna consacrata a Dio. Cari amici, ringraziamo Dio per le suore e preghiamo. Quando mai, recitando il rosario, abbiamo sentito questa decina, la diciamo per i religiosi e le religiose? Mai. Si prega per i giovani, per gli anziani, per gli ammalati, per i medici, per i preti. Preghiamo anche per le vocazioni religiose, maschili e femminili, perché la donna consacrata può entrare in tante situazioni in cui mai un uomo potrà entrare, per esempio nella confidenza di altre donne, diciamo anche per fortuna, per dire. Ma quante volte una donna consacrata è in grado di entrare, io sentivo dire, anche in Meridione d'Italia, dove c'è la malavita organizzata, la mafia, la camorra, un prete può e non può entrare in certe case, una suora può entrare sempre, perché trova come sponda le donne di quella casa. Può avvicinarsi a tante ragazze che un prete può e non può fare. Io conosco suore che lavorano in carcere. C'è stato qui a San Vittore una suora che si è fatta santa e veniva chiamata l'angelo di San Vittore. Preghiamo allora oggi per le suore e ringraziamo Dio che mette nel cuore di donne, di ragazze, di tutte le età, il desiderio di Lui, perché una diventa suora anzitutto per Dio. Non a caso il popolo dice sono le spose di Gesù, le spose di Cristo, innamorate di Gesù. E come sarebbe bello pregare perché delle ragazze si innamorino del più bello dei figli degli uomini. E come sarebbe bello ringraziare Dio per tutto il lavoro silenzioso, nascosto, che fanno fino a quando non ce la fanno più. C'è in giro suore di 90 anni, e io ne conosco, che ancora lavorano per il regno di Dio, perché una suora non ha età, come una mamma, come una donna, una nonna, non ha età. Ringraziamo Dio per il dono delle suore in questa festa delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, e così sia.